Più tardi, nella luce debole di una falsa alba, il soldato rimase accanto alla finestra, fumando una sigaretta, osservando distrattamente un carro dei rifiuti avanzare su per la Rue Flaubert. Un uomo alto lo spingeva e uno piccolo lo tirava. Forse il carro era già pieno, perché non si fermavano a raccogliere nessuno dei vasi lasciati davanti alle porte laterali. Procedevano con le teste chine per lo sforzo di mantenere l'equilibrio, nonostante le buche, evitando i sassi liberati dalle piogge recenti. I suoi pensieri andavano a Sciucciao. Avrebbe dovuto dirlo alle donne, ora tutte vedove. Avrebbe detto soltanto che Talento Coraggioso era morto di un attacco di cuore. Un sorriso cupo gli affiorò sulle labbra. Attacco di cuore. Non sarebbe poi stato molto lontano dalla verità. Come si era espresso un tempo suo fratello, che male c'è a sognare se allevia la pena. Non c'era motivo di richiamare i suoi nipoti dall'estero. Quando fosse tornato, Vista Gloriosa avrebbe ricevuto il gioco degli scacchi, ma solo come ricordo e simbolo. Non ci sarebbe mai più stato un patriarca della casa dei Chang. Improvvisamente si mise allerta. Il carro si era fermato davanti al numero 42. L'uomo piccolo e magro si avvicinò alla casa. Sbirciò attraverso lo spioncino, socchiuse gli occhi. Che cosa volevano quei rifiuti umani? Corse nell'atrio. Nella fretta ebbe difficoltà con la serratura, ma poi, spalancata la porta, uscì fuori e urlò nella strada: «Ehi, voi!» L'uomo alto stava correndo verso di lui, non stava fuggendo. Il ragazzo, cosa diavolo, sentì qualcosa premergli contro le costole, la canna di un fucile. «Indietro!» Un'altra stoccata. Una volta dentro, l'uomo alto chiuse bruscamente la porta dietro di sé e tirò il cordone della luce. Quasi subito mormorò: «Talento nobile?» Sbattendo le palpebre alla luce improvvisa, Talento nobile li riconobbe. Era uno spirito risoluto e già da lucente. Era lei che teneva l'arma. «Sei impazzita!» Le strappò il fucile e lo mise sul tavolo. «Me lo sarei dovuto aspettare da voi due!» Per un po' rimasero tutti immobili. Poi già da lucente disse con una voce rauca per lo sfinimento: «Sì, dopo quel che ho visto, sì, forse sono impazzita!» Talento nobile si sentì investire dalla vampata d'odio che brillava nei suoi occhi e indietreggiò. Lei si slanciò in avanti per prendere il fucile. Rapido, spirito risoluto saltò in mezzo a loro, afferrandola e tenendola stretta: «Tu devi perdonarla! Come puoi certo immaginare? È da 2 giorni e 2 notti che scappiamo e ci nascondiamo!» Ci fu un'altra pausa di silenzio, poi Talento Nobile girò sui tacchi e si avviò verso la biblioteca. «Seguitemi qua dentro!» Aprì la porta. La luce proveniente dall'atrio cadde sul divano. «Doveva aver saputo che voi due eravate qua», disse. La sua voce si spezzò. «Doveva essere venuto a Sciucciao per aiutarvi, per proteggervi!» Già da lucente si avvicinò lentamente al corpo, a passi incerti, come se avesse paura. Per un attimo sembrò non riconoscerlo, poi mormorò: «Chi l'ha ucciso?» Improvvisamente il soldato perse il controllo. «Voi!» urlò. «Voi, comunisti! Avete ucciso mio fratello!» Già da lucente scosse il capo, voltandosi verso di lui. «Ti sbagli, prozio!» disse amaramente, ogni sua parola simile a una freccia. «Ti sbagli! Noi non l'avremmo ucciso! Sono stati i tuoi soldati! E i gangster che ingaggiano!» Si interruppe rabbrividendo. «Sono i tuoi che massacrano! Sono stati i tuoi a gettare giovani operai vivi nelle fornaci delle locomotive!» Lui stava per ribattere, quando vide che piangeva. «L'ho visto con i miei occhi!» mormorò lei. «Ricordi il nostro amico Hu? L'abbiamo visto morire, abbiamo sentito le sue urla!» Era possibile che dicesse la verità? Guardò il contadino. «Vecchio amico, è vero?» L'uomo annuì lentamente. «Sì, abbiamo visto, abbiamo sentito.» Si fermò come se cercasse le parole e infine disse semplicemente: «Le urla. Abbiamo sentito le urla.» «Ah, l'incubo non ha fine!» pensò Talento Coraggioso, chiudendo gli occhi, desiderando che quei due se ne andassero. Quando li riaprì, la stanza sembrava più buia. Barcollò. Come da molto lontano sentì già da lucente chiamare: «Prozio!» e poi la propria voce. Fratello maggiore, svegliati, svegliati! Le sue mani erano immonde per il fango del canale. Come osi! Aveva detto il patriarca. Ora lo poteva sentire distintamente. E le tue responsabilità verso il clan, fratello? Verso gli antenati, verso il clan, fratello? La voce svanì e sentì spirito risoluto che lo sorreggeva. Sbattendo le palpebre, vide di nuovo alla chiara luce del mattino il corpo sul divano. Gli si avvicinò. Le responsabilità verso di te, fratello mio, sussurrò, e verso il clan. Pagherò il debito. Improvvisamente si mise allerta, si girò di scatto verso Spirito Risoluto. Il carro! Dobbiamo nascondere il carro! Corsero verso la porta sul davanti. Spirito Risoluto sbirciò attraverso la finestra. Troppo tardi. Stanno arrivando. Potrebbero essere i miei uomini. Talento Nobile volle vedere coi propri occhi. Spirito Risoluto era immobile. No, non sono i tuoi uomini. Non portano uniforme. Quanti sono? Mormorò Giada Lucente. Cinque. Devo trovare una soluzione. Il soldato si torceva le mani. Per prima cosa suo nipote e suo marito dovevano nascondersi. Ordinò loro di andare di sopra. Non discussero. Il soldato prese in mano la situazione. Quando i fuggitivi furono scomparsi, rapidamente si infilò la fondina della pistola e andò al telefono, dando al centralino il numero privato della M&S Company. «Way!» era la voce di 20 d'agosto. «Sono Talento Nobile!» parlò rapidamente senza sprecare parole. «Non interrompermi! Ascoltami attentamente! Manda subito due culi, uno alto e uno magro. Devono rimuovere il carro dei rifiuti che troveranno davanti a questa casa. Poi vieni tu, col carro funebre. Porta la bara, i nostri amici sono qua!» Si sentì bussare alla porta. «D'accordo? D'accordo!» Posò il ricevitore, ma rimase immobile, non doveva lasciare loro capire che li aveva visti arrivare. La porta tremava sotto i loro colpi. Aprite! Ubbidì. Quattro uomini a una certa distanza l'uno dall'altro se ne stavano in semicerchio davanti alla casa. Il quinto, evidentemente il loro portavoce, era davanti alla porta. Una canaglia dal collo tozzo cui mancava il lobo sinistro fu evidentemente sorpreso di vedere un ufficiale. Siamo venuti a perquisire la casa. Per ordine di chi? Ah, lascia perdere, fammi entrare. Non era il tipo da lasciarsi intimorire da un uniforme, ma Talento Nobile non si mosse. Sai con chi stai parlando? Fammi entrare, tu non c'entri. Il soldato appoggiò le mani agli stipiti della porta. Chi stai cercando? Degli agitatori. L'uomo sputò per terra. Talento Nobile guardò lo sputo, disgustato. Poi fissò l'uomo negli occhi. Qui non ci sono. Sei venuto nel posto sbagliato. Voglio vedere con i miei occhi. Il brutto cercò di spingere via il braccio e fu sorpreso quando scoprì che non vi riusciva. Ignorando quell'insolenza, Talento Nobile replicò: Questa casa è in lutto. I defunti devono essere lasciati in pace. L'uomo sputò di nuovo. Voglio vedere con i miei occhi. Abbassando il braccio, Talento Nobile rispose: Certo, fruga questa casa. Palmo a palmo, ma me la pagherai! Per un attimo la canaglia esitò, poi chiese: Chi è morto? Il patriarca della casa dei Chang, il cui Lao Kia era rinomato a Shuchao dai tempi della dinastia Ming. Fammi vedere il cadavere. Talento Nobile non rispose immediatamente, poi annuì brusco e gli fece strada fine alla biblioteca. Si inginocchiò solennemente accanto al corpo: Chiudi la porta quando te ne vai. Vide il modo in cui l'altro squadrava il morto, studiando con sguardo penetrante la sua postura, anche quando l'uomo prese lentamente a camminare intorno al divano, sempre scrutandolo per individuare la minima sfumatura innaturale, lui non diede segno di notarlo. I tacchi del bandito fecero un clic metallico quando scese dal tappeto. Il rumore si avvicinò, poi si allontanò. Talento Nobile si limitò a inclinare appena la testa, come se pregasse. Ora l'uomo era proprio dietro di lui, vicino alla porta del salotto. Probabilmente stava guardando nell'altra stanza, pensò Talento Nobile, ma resistette alla tentazione di controllare. Improvvisamente il bandito Si avvicinò di nuovo e si chinò per scrutare il volto dell'uomo in lutto, ma gli occhi di Talento Nobile non si distaccavano un attimo dal corpo del fratello. Finalmente sentì di nuovo i passi nel corridoio, poi il suono dei tacchi si arrestò. L'uomo era forse ai piedi delle scale? Ah, Talento Nobile stava in ascolto, tutto teso a captare il prossimo suono. I passeri fuori, l'orologio sulla scrivania, il proprio respiro. Lo scricchiolio delle scale. Si domandò se quello era il momento di estrarre la pistola. Bang! La porta. No, era stato un trucco. Rimase immobile per un tempo che gli parve interminabile. Finalmente sentì la porta aprirsi e chiudersi e udì delle voci. Non si mosse per altri 15 minuti, gli occhi fissi sull'orologio. Poi andò alla finestra e con precauzione guardò attraverso le tende. Gli uomini erano sempre là, in cerchio, sul terrazzino, e parlavano. Quello senza il lobo aveva acceso una sigaretta. Sembrava che non avessero nessuna fretta di andarsene. Infine, in lontananza, apparvero due figure che si diressero al carro dei rifiuti. Presero posto, quello magro davanti, quello alto dietro, e il carro si mosse. «Ehi!» urlò il capo dei banditi. «Ehi, voi due! Fermatevi!» Ma quelli corsero. Non andarono lontano. Trascinati indietro fino alla porta del numero 42, si fecero piccoli piccoli per la paura. I banditi lacerarono loro la camicia. Non c'è nessuna donna, solo vasi puzzolenti. Il capo li mandò via con un calcio. Talento Nobile si allontanò dalla finestra e salì le scale. Al crepuscolo, i cinque uomini stavano ancora lì, quando la cassa da morto fu portata fino al carro funebre in attesa. Il soldato e 20 d'agosto la seguirono a piedi fino a una chiatta sul fiume Shuqiao. Dentro la bara, i due fuggitivi. Sottoterra, vicino allo scivolo del carbone, giacevano i resti del patriarca. 38. La resa dei conti. Che paese è la tomba? È la sede affollata degli spettri. Pazzi e saggi, spalla a spalla, il re dei morti li chiama tutti. Il destino dell'uomo è indifferibile. Canto funebre. Era mezzanotte. Sul fiume Shuqiao la nebbia avviluppava, come un sudario diafano, due imbarcazioni che veleggiavano in tandem, una enorme casa galleggiante che rimorchiava una barca assai più piccola. A bordo della casa galleggiante, Talento Nobile se ne stava inginocchiato sul ponte, tirando il cavo che la collegava all'imbarcazione più piccola, in modo da far accostare quest'ultima, mentre, nella cabina principale, 20 d'agosto riempiva di libri la bara vuota e i due fuggitivi si riposavano. Spirito risoluto fu il primo a riprendersi. «Meglio che vada sul ponte a dare una mano», disse. Già da lucente annuì e lui si avviò barcollando verso la porta, chiudendola silenziosamente dietro di sé. Abbassate le palpebre, lei appoggiò la testa alla paratia. I suoi abiti erano zuppi di sudore, gli arti rigidi, la carne intorpidita per essere rimasta rattrappita così a lungo. Respira a fondo, lentamente, si disse. Non così in fretta. Uno, due, tre, contò. Uno, due, tre. Sì, va meglio. Sentiva il cuore placarsi un poco. Erano salvi. Presto se ne sarebbero tornati fra le montagne, al sicuro. Aprendo gli occhi per un istante, osservò 20 d'agosto che aveva finito di riempire la bara e la stava sigillando. Sarebbe stata calata così nella fossa, perché Virtù Splendente non doveva sospettare, non doveva sapere mai che il corpo di Talento Coraggioso giaceva lontano dalla casa. Abbassò di nuovo le palpebre e quando guardò di nuovo 20 d'agosto seduto accanto a lei le sorrideva con dolcezza. Va tutto bene? Sorrideva come le aveva sorriso l'ultima volta che si erano visti, il giorno in cui lei aveva portato un nuovo destino a Shanghai. Già da lucente annuì, in silenzio, le parole di gratitudine dovevano restarle chiuse dentro perché non ne seguissero delle altre. Quando i loro occhi si incontrarono, il sorriso di lui svanì. Poi tornò. Sorella, Gli anni mi hanno così mal ridotto che non riesci a dirmi una parola gentile? Chiese lui in tono scherzoso. Tu non sei cambiato. Io invece sì. Gli mostrò le palme delle mani. Lui le prese fra le sue. Sei così fiera dei tuoi calli, già da lucente. Lei sorrise, la conosceva bene. Si affrettò a spezzare il silenzio prima che lui potesse parlare. È passato tanto tempo. Lui annuì e un attimo dopo le domandò a bruciapelo: Sei stata felice? Felice. Soltanto lui poteva farle una domanda del genere. Ritirò le mani e incrociò le braccia per proteggersi dal freddo. Non ho tempo per pensare a cose simili. C'è sempre tempo per la felicità, disse lui. Poiché lei non reagì, la stuzzicò. Forse quando sei sola con lui? Perché chiederglielo? Pazientemente lui aspettava una risposta. Quando il silenzio le divenne insopportabile, disse: Mio marito e io non litighiamo quasi mai. Non come facevamo tu. È gentile con me. Io cerco di non essere cattiva con lui. A quelle parole lui si alzò e si allontanò, fermandosi alla finestra per scostare la tenda e guardare fuori. Per un po' nessuno dei due parlò. Lontani, l'uno dall'altra, ascoltavano i passi sul ponte, il gemito del legno. Alla fine lui si voltò. Se i mortali aspettano che gli dèi plasmino il mondo, secondo i loro pensieri sono già all'inferno. Era un'accusa, ma quelle parole non avevano senso per lei, non più, perlomeno, e non lo avrebbero avuto mai. Questa volta fu lui a spezzare il silenzio. Non desideri chiedermi qualcosa dopo 4 anni? Poiché lei non rispose, proseguì. D'accordo, se non vuoi sapere niente di me, non ti interessano tua madre, tuo figlio? La sua voce salì di tono. Non vuoi sapere niente di loro? Era furibondo ora. Rispondimi! Oh, non posso, non posso! Cosa significa che non puoi? Non posso, mormorò lei di nuovo. Chiuse gli occhi, ricordando il terrore sui volti di quelli che erano stati arsi vivi. E cercando di corazzarsi contro le sue domande. È possibile che tu non capisca? Non sai che hai spezzato il loro cuore quando li hai lasciati? Ogni notte per settimane tuo figlio si è svegliato chiedendo di te e tua madre l'ha cullato avanti e indietro per la stanza, per chissà quanti lì, cercando di confortarlo mentre lui voleva soltanto te, anche se i suoi gigli dorati le doloravano, non ha permesso che nessun altro prendesse il suo posto. Parlando, le si era avvicinato e per un attimo lei pensò che l'avrebbe picchiata, ma rimase lì, ritto davanti a lei. Ora io devo dirgli che ti ho vista e che tu non mi hai chiesto nemmeno quel che un forestiero vorrebbe sapere. Stanno bene? In cuor suo lo supplicò di smetterla. Si nascose la faccia fra le mani, ma lui gliele scostò. Piangi? Mia cara amica? Una pietra può forse piangere? Lei alzò lo sguardo. Perché piangi, compagna? Per le masse oppresse? Per quelle sì, vale la pena di versare una lacrima o due? Tu non mi hai mai capita. No, credo proprio di no, disse lui stancamente. Le lasciò cadere le mani come se fossero insozzate. Vado sul ponte. Aspetta, lo richiamò quando lui fu arrivato alla porta. Aspetta. Lui rimase immobile. Fratello. Si chinò in avanti, le maniche tremavano. Fratello, ti prego. Se chiedessi saprei. E se sapessi, soffrirei. E se soffrissi non potrei essere quel che devo essere. Il braccio le ricadde in grembo, si strofinò il gomito come se fosse stato leso e le dolorasse. Tu mi dicesti un tempo che non abbiamo alternativa se non essere quello che siamo. Avevi ragione, non capisci. Meno so e meno devo dimenticare. L'espressione di lui si addolcì e quando parlò non c'era più collera nella sua voce, ma dolore. Piccola sorella, siamo così diversi. Tu non vuoi sapere niente. Io voglio avere qualcosa, qualsiasi cosa, da ricordare. Ma io non devo ricordare, pensò lei. Il mio lavoro deve contare più di me stessa, altrimenti i miei sacrifici non avrebbero senso. Improvvisamente volle che lui capisse. Io non devo ricordare, fratello, io devo ricordare solo quel che serve alla mia causa. Io sono comunista, io lavoro. Tu sei una fuorilegge. Finirai accerchiata sulle montagne con contadini infestati dai pidocchi e poi verrai uccisa. Che cosa avrai compiuto? Ti sbagli. Cercò di alzarsi, ma fu presa dalle vertigini e ricadde sulla panchina. Noi non saremo uccisi, noi trionferemo. Lui rise amaramente. Nemmeno un pazzo scommetterebbe un cash sulla vostra vittoria. Noi non abbiamo bisogno di pazzi. Noi abbiamo il partito, abbiamo la gente. Di nuovo cadde il silenzio. Lui tirò fuori le sue sigarette e sedette accanto a lei, gliene offrì una e ne accese un'altra per sé. Per un po' fumarono senza parlare. Stanno bene? Chiese lei. Ma fra sé, mio figlio, mia madre. Ma certo. Pensò, che pericolo potrebbero correre? Erano a Sciucciao, fra le mura del giardino. Improvvisamente lui rise di nuovo. No, sorellina, sono io il pazzo. Rischio la mia vita per aiutare dei comunisti. 20 d'agosto, il più grosso capitalista di Shanghai. Mi sembra di sentirti raccontare come sfrutto i lavoratori delle mie fabbriche, come sfrutto i miei fittavoli, come in realtà non faccio nulla se non opprimere le masse 24 ore su 24. Se fossi nel Hunan, mi avresti fatto giudicare da un tribunale del popolo, mi avresti fatto sfilare col cappello d'asino e poi giustiziare. Si fermò, come aspettando che lo contraddicesse, poiché lei rimase zitta, si alzò lentamente e si diresse di nuovo verso la finestra. Un alito d'aria mosse la tenda. Lei stava pensando a un'altra notte trascorsa insieme sul fiume, in quattro sul ponte a ridere. 20 d'agosto si voltò verso di lei. Su una cosa, voi comunisti avete ragione. Noi borghesi siamo degli stupidi sentimentali. Lei si alzò e fece per andare verso di lui, ma di nuovo si sentì mancare. Lui la sorresse e per un attimo rimasero uniti, abbracciati. Poi, senza parlare, lui l'aiutò a sedere di nuovo. Devo cercare di fargli capire. Fratello mio, un tempo il mio cuore era come il tuo, ma poi mi sono resa conto che non può nascere una nuova Cina finché quella vecchia non sarà morta. Soltanto recidendo i vecchi legami si può realizzare quel che è giusto. Io credo, anzi sono certa, che soltanto quando il comunismo sarà subentrato al confucianesimo i cinesi saranno di nuovo uniti, soltanto allora la Cina sarà di nuovo grande. Continuò nella sua spiegazione. Lui l'ascoltava senza interromperla, ma lei sapeva che il destino delle masse non le interessava, che lui pensava a una persona sola. Quando ebbe finito una seconda sigaretta, smise di parlare e si chinò per spegnerla sul pavimento di teak. Un'altra? Chiese lui. Lei annuì. 20 d'agosto si frugò in tasca, ma quando ritirò la mano. Non estrasse il portasigarette d'oro. Fissò per un attimo la busta rigonfia, come se fosse sorpreso per quel che aveva trovato, poi gliela buttò in grembo. Ti ho portato un regalo. Giaceva lì come un serpente attorcigliato. Lei non riusciva né a distogliere lo sguardo da essa, né a toccarla. Dopo un po' lui la raccolse e l'aprì, disponendo le foto a una sulla panchina. A una lei le guardò, immagini di nuovo destino sorridente che cresceva sotto i suoi occhi, nuovo destino in una veste di seta accanto a uno dei cipressi nani, nuovo destino in abito occidentale con un telescopio in mano, nuovo destino con una casacca foderata di pelliccia accanto all'una di primavera, abbigliati entrambi per il Capodanno. Basta, basta, supplicò fra sé come prima. Basta, ti prego. Rapidamente raccolse le foto e le nascose di nuovo nella busta. Prima di rendersi conto di quel che diceva, domandò: Ti sei sposato, fratello? No, ma ho un figlio, il tuo. La porta si aprì e spirito risoluto apparve riempiendo il vano. È ora di andare, disse. Lentamente, Giada lucente si alzò e, deposta la busta sul tavolo, passò accanto alla bara, dirigendosi verso la porta. Amico mio, disse Spirito risoluto. Amico mio, ti ringrazio per averci salvato la vita. Non dimenticherò mai quel che hai fatto. 20 d'agosto, Anuì, un ultimo favore, ti prego. Certo. Spirito risoluto si frugò in tasca e tirò fuori il fischietto di canna. Ti prego, dallo al mio bambino. 20 d'agosto lo prese, lanciando un'occhiata verso la busta, poi verso Giada Lucente. Lei scosse la testa. Presto, dobbiamo andare. In un momento in cui la nebbia nascondeva la spiaggia come una coltre, Giada Lucente e Spirito risoluto scesero nell'imbarcazione più piccola. Avrebbero attraversato i canali fino allo Yangtze, mentre gli altri proseguivano il viaggio verso casa. 3 giorni dopo, la bara fu sepolta accanto agli antenati di talento coraggioso. La cerimonia fu semplice. Vi assistirono soltanto i membri della famiglia che vivevano ancora a Suzhou e alcuni amici del letterato, membri della società per il rafforzamento nazionale. Il clan non si riunì e non vi fu nessuna processione di preti e suonatori verso la città. Furono mandati dei telegrammi a Cambridge, nel Massachusetts, ma con la raccomandazione che i figli del patriarca non tornassero in Cina. Talento nobile informò le donne che il fratello aveva lasciato istruzioni in proposito. In vita ho spesso trascurato la sicurezza della famiglia. Morto non voglio comprometterla ulteriormente. Quando l'ultimo kutù fu compiuto, Virtù Splendente rimase inginocchiata accanto alla nuova tomba. Parlò con voce sommessa ma chiara, così che nel silenzio le parole rimasero sospese nell'aria. Marito mio, era il mio più fervido desiderio precederti oltre le sorgenti gialle, per poter essere là ad accoglierti. Ora che tu te ne sei andato, scivolando nella terra silenziosa come la rugiada, senza baldacchini o tamburi, io ho... La sua voce tremò, si interruppe, chinando il capo, e quando finalmente parlò di nuovo fu come se niente fosse accaduto, come se in quell'intervallo il tempo si fosse fermato. Io ho vergogna, e perché vi sia qualcuno che non dimentichi mai, che ti pianga sempre, io non mi allontanerò mai più dal mio alloggio finché verrà il momento di dormire accanto a te per sempre. Sapendo che sarebbe stato inutile, gli altri non cercarono neppure di dissuaderla. Virtù Splendente abbandonò la sua canapa bianca accanto ai leoni di bronzo per evitare che la morte li seguisse dentro casa, poi chiuse la sua porta al mondo. Il mattino dopo il funerale, Talento Nobile si svegliò presto al richiamo lamentoso del fischietto di canna. Stette un poco in ascolto, osservando i nastri dorati del sole filtrare nella stanza dalle fessure delle persiane. Da quando era partito, ragazzo, per andare all'accademia, soltanto le pergamene erano state cambiate nella piccola stanza. Per la prima volta, dopo molti mesi, si sentì in pace. Era l'ora del drago e ancora non aveva indossato l'uniforme che era stata disposta con cura sul baule di legno di canforo ai piedi del letto. Una volta ancora si diresse verso la pergamena appesa alle pareti fra le finestre a est, dove si trovava l'ultimo capodanno, a Nanchang, coi suoi uomini, immaginava. Talento coraggioso doveva aver appeso allora la pergamena. La calligrafia era la sua. Talento nobile lesse a voce alta la poesia di Wang Wei. Amico mio, ti ho guardato lontano sulla montagna finché ora, sceso il buio, chiudo la porta della mia capanna. L'erba rinverdisce in primavera, ma tu, o principe degli amici, tornerai? Con un dito, Talento Nobile tracciò alcuni caratteri, ricordando il fratello al tavolo da calligrafo. Da giovane, poi da vecchio, era una parte tanto integrante di lui che mai aveva chiesto a Talento Coraggioso della sua arte, e ora era troppo tardi. Si voltò lentamente per finire di vestirsi, trovò gli stivali davanti alla porta, inzuppati da un acquazzone improvviso. Il suo servo non si vedeva da nessuna parte e lui si diresse verso il guardaroba, ricordando che vi aveva lasciato un paio di stivali. Quanto tempo prima! Da quando era partito per il sud, per unirsi ai rivoluzionari, non aveva mai più guardato dentro l'armadio durante le sue brevi visite all'Aokya. Ora, aprendolo, fu esterrefatto. Gli indumenti spaiati che vi aveva lasciato erano scomparsi e al loro posto vesti e casacche di seta e broccato, soprabiti foderati di pelliccia, una fila di pantofole di seta. Ne provò un paio, gli andavano alla perfezione. Incuriosito dalle vesti, si misurò quella blu contro le spalle, poi quella grigia, quella marrone, erano tutte identiche. Scelta quella grigia, si svestì e l'indossò, e quando si fu abbottonato l'alto collo, ne ebbe la certezza, quelle vesti erano state confezionate per lui. Era possibile che Alba Luminosa avesse continuato a cucire per lui tutti quegli anni. In fondo all'armadio, esattamente nel centro c'era una cassetta di legno di canforo. Stupito, la prese, la mise sulla scrivania e l'aprì. Dentro c'erano dei quadratini di stoffa squisitamente ricamati. Li tirò fuori a uno il cavalluccio marino, il rinoceronte, la pantera, l'orso bianco, l'unicorno, i galloni che aveva portato sul suo soprabito di ufficiale quando la Cina era ancora un impero, i sogni di sua madre. Talento nobile li rimise nella cassetta, poi, raccolta la sua uniforme dal letto, la piegò con cura e la ripose nell'armadio. Andò alla scrivania e tirò fuori carta e pennello. Dal recipiente di porcellana versò gocce d'acqua sulla pietra calamaio. Con cura sfregò la tavoletta d'inchiostro e, raccolto il pennello, scrisse a Chiang Kai-shek chiedendo di essere esonerato dal servizio. Il lutto e le responsabilità familiari mi trattengono a Sciucciao. Per troppo tempo le ho trascurate. Diede la lettera a un servo. Poi fece visita alla madre e passarono tranquillamente la giornata insieme, mentre lei cuciva.